Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Ma l'abbiamo già detto, no? Sì, che ci sono io al posto di Chiara Albicocco, che salutiamo. E che sta per avere il bambino, ormai manca pochissimo. Sta per nascere. Vabbè, via, titoli. E in effetti c'è un tempo per tutte le cose, anche per la borsa. E poi l'influenza in quelli che hanno le ali, i volatili. 25.000 pesci tropicali in aeroporto. Accidenti. Dove? Ve lo raccontiamo tra poco. Via, partiamo. Dicevamo nei titoli, c'è un tempo per tutte le cose e fra queste cose c'è anche la borsa, le transazioni finanziarie. C'è un ultra tempo. Che cosa significa? Ne parliamo con Davide Calonico dell'IRIM, l'Istituto Nazionale per la Ricerca sulle Misure. Buonasera Calonico. Buonasera. Buonasera. Allora, voi avete presentato ieri una tecnologia per misurare quant'è la frazione di secondo che riuscite a raggiungere? Ah, siamo, insomma, come limite ultimo adesso siamo sotto il nanosecondo. Il nanosecondo. Quindi le transazioni finanziarie corrono veloci? Le transazioni finanziarie non solo corrono veloci, ma hanno bisogno di una datazione certa e quindi certificata. E questo fa nascere dei nuovi bisogni dentro a una normativa nuova che l'autorità europea del settore sta emanando e che sarà in vigore dal gennaio 2018. Due parole in generale però, Calonico, sulla misurazione così precisa del tempo. Si parla di utilizzo di fibra ottica, ma questo forse ci sembra normale perché effettivamente è quella che garantisce le alte velocità, ma come sono queste procedure? Che cos'è che hanno al cuore, alla radice? Allora, innanzitutto questo livello di accuratezza che si raggiunge nei nostri laboratori viene ottenuto grazie a dei raffinati orologi atomici che estraggono appunto dalla natura quantistica dell'atomo un'informazione di tempo e frequenza. E il problema che poi è portarla dai laboratori verso l'esterno e quindi anche verso gli utenti. Per fortuna il tempo e la frequenza si può trasmettere tramite onde elettromagnetiche, quindi nel corso della storia lo si è trasmesso con segnali radiotelevisivi, radio e con segnali satellitari. L'ultima frontiera è arrivata con la fibra ottica, che garantisce la possibilità di trasportare l'accuratezza degli orologi in remoto senza rovinarne e degradarne l'accuratezza. Quello che dico io è che un po' che portiamo l'orologio atomico a casa dell'utente, l'utente scientifico piuttosto che quello industriale, così che ce l'abbia come se fosse nella stanza accanto, invece si può trovare a 200 chilometri, 1000 chilometri di distanza. Questo segnale poi dove arriva? Cioè il segnale del tempo che certifica l'avvenuta transazione finanziaria, chi lo riceve? Dunque, sulla fibra facciamo una trasmissione da punto a punto, quindi dai nostri trasmettitori arriviamo a destinazione dove c'è una stazione ricevente. E la stazione ricevente in quel punto viene codificato la datazione, quindi l'ora, con una granularità, quindi una sensibilità che arriva anche appunto a livelli del nanosecondo e quindi perfettamente dentro quello che è la richiesta attuale per la finanza, che invece è del microsecondo, cioè del milionesimo di secondo. La nuova direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, a cui faceva riferimento prima, richiede anche di usare come riferimento l'orario ufficiale internazionale, il famoso UTC, insomma. Ecco perché? Perché questo è il miglior riferimento di tempo realizzabile? Sostanzialmente questa è l'ora universale, quindi tutti il sistema internazionale dell'unità di misura ha come idea fondante che le grandezze vanno misurate tutte nello stesso modo, con le stesse unità. Per il tempo gli istituti meteorologici di tutto il mondo concorrono a realizzare una scala di tempo comune, formata dalle scale di tempo locali, insomma è una media sostanzialmente, e che si prende questo nome particolare che è Universal Time Coordinated, UTC, e che funge proprio da riferimento globale. E a quanto pare la borsa di Milano è seconda dopo quella di Londra ad utilizzare questo sistema. Corretto, la prima piazza finanziaria collegata a un istituto metrologico e quindi a OTC con una fibra è stata quella londinese, e noi arriviamo a ruota e dando comunque al nostro sistema anche una marcia in più per gestire eventualmente questo passaggio un po' epocale della nuova regolamentazione. Nel salutarla, Davide Canonico, faccio una domanda alla quale non risponde lei, ma un'altra nostra ospite, cioè: avete fatto una cosa buona o una cosa pericolosa? E adesso scopriremo che avete fatto una cosa buona, ma un rischio c'era. Grazie Canonico e buon lavoro. Grazie tantissimo a voi. Buona serata. Buon lavoro. Il problema ha un nome, si chiama High Frequency Transition, HFT. Andate in rete a vedere quanti problemi crea questo modo di lavorare con la borsa, che, lo dico io, con la borsa c'entra praticamente niente. Cioè si vende e si comprano azioni, numeri spaventosi, mille volte in un secondo, con un criterio che insomma sta preoccupando da tempo parecchie realtà, i stessi governi e stati, perché crea problemi giganteschi. Allora la domanda che ci facciamo è: questa innovazione messa in campo appunto per le trattative borsistiche è un problema rispetto al controllo di queste HFT oppure gli dà addirittura un vantaggio? Manuela Geranio, buonasera. Buonasera. Lei è dell'Università Bocconi, lavora nel campo dei mercati finanziari internazionali. Allora, Geranio. Ma io direi che in realtà si tratta di un qualcosa di sicuramente utile, proprio appunto per chi deve regolamentare e osservare, normare i mercati finanziari. Questo perché di fatto, appunto, come già accennava lei, l'high frequency trading è già molto diffuso, è già molto presente. Oltre metà delle transazioni del mercato americano, ad esempio, lavorano appunto con algoritmi ad alta frequenza, per cui l'operatività c'è già. Il problema è misurare, anche dal punto di vista di chi deve controllare appunto queste attività, in maniera adeguata il modo in cui le transazioni avvengono. Mi spiego meglio. Le innovazioni che appunto sono state fatte avanti, che si stanno sviluppando anche nella misurazione del tempo, sono importanti perché queste transazioni avvengono nell'ordine dei microsecondi, cioè del milionesimo di secondo, e quindi è necessario avere anche degli strumenti adeguati per poter verificare l'ordine e la sequenza storica con cui questi ordini arrivano al mercato. Questo anche per evitare, per poter controllare ad esempio che non si verifichino degli abusi o delle pratiche manipolative sul mercato. Quindi avere degli orologi più precisi, innanzitutto avere degli orologi più sincronizzati da un lato. Quindi un modo per monitorare meglio i flussi? Assolutamente sì, è un modo per datarli in maniera più precisa. Ci dica allora se sbagliamo, c'è un problema, che è una bella patata bollente, di introdurre regolamentazioni su questa HFT. Se abbiamo tempi certi, queste regolamentazioni si potranno attuare? Alcuni di questi requisiti particolarmente stringenti sono stati esplicitamente richiesti anche proprio da autorità regolamentare. La MiFID 2 e i regolamenti attuativi dell'ESMA prevedono l'introduzione di sistemi di misurazione che possono andare dal millisecondo ad alcuni nanosecondi in alcuni casi, proprio perché vogliono, come dire, avere gli strumenti adeguati per poter, in caso di bisogno, andare poi a verificare qual è stata appunto la sequenza delle operazioni e poter dare una datazione certa e precisa alle medesime. E a questo serve la soluzione proposta dall'IRIM, di cui abbiamo parlato prima. Manuela Geranio, buona serata e grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buona serata. Buona serata e buon lavoro. Cosa c'è adesso? Il traffico. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Simona Regina, tu hai fatto il vaccino anti-influenzale? Io sì. Però non hai le ali. In effetti, chi ha le ali c'ha dei problemi. Sa volare, ma non può vaccinarsi. No. E invece l'influenza svolazza pure presso di loro. Infatti sì, parliamo di uccelli selvatici, in particolar modo a quanto pare anche loro devono fare i conti con l'influenza di stagione. Accidenti. E noi ne parliamo e ci facciamo spiegare anche questa questione del vaccino. Ne parliamo con Isabella Monne, dirigente veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e responsabile del Centro di Referenza Internazionale per l'Influenza Aviaria. Buonasera, benvenuta. Buonasera a voi. Isabella Monne, allora, anche gli uccelli devono fare i conti effettivamente con l'influenza di stagione? Allora, definirla influenza di stagione forse è un po' riduttivo, però sì, anche i volatili possono andare incontro ad un'infezione con un virus influenzale, in questo caso si tratta di influenza aviaria per l'appunto, che è sempre un piccolo virus mutevole come quello che causa l'influenza stagionale nell'uomo e che appartiene alla sua stessa famiglia, Ortomyxoviridae, ma in questo caso si tratta di un virus che ha il suo serbatoio naturale nei volatili selvatici. Generalmente è un virus a bassa patogenicità, ma ahimè quest'anno sta capitando qualcosa di, diciamo, un po' inatteso, anche se non è la prima volta che ci misuriamo, è arrivato un virus altamente patogeno anche per i volatili selvatici. Cioè ci è giunta la notizia che quest'anno è un po' più grave. Sì, quest'anno è decisamente preoccupante. Ma è in corso un'epizoozia, è corretto? Questo è il termine esatto? Sì, esatto, questo è il termine esatto, è il corrispondente dell'epidemia di quando si parla nella popolazione umana. Ora ci stiamo misurando con un'epizoozia, che altro non è che appunto una situazione in cui il numero di casi è davvero difficile da definire, è fuori controllo. Mi spiego meglio, è arrivato un virus che sta viaggiando e ha viaggiato dall'Asia fino a qui attraverso i volatili selvatici, perché naturalmente questi volatili sono portatori, osservatori, meglio definirli, naturali dell'infezione, e quest'anno appunto sono arrivati con un virus altamente patogeno che ha causato e sta causando una serie di problematiche in molti territori, perché la diffusione è stata transcontinentale. Tenete presente che alcuni dei volatili che appunto sono infetti con questo virus compiono delle migrazioni per migliaia di chilometri, e quindi non è soltanto l'Europa che è stata colpita dall'epizoozia di cui parliamo, ma anche altri continenti come anche l'Africa. Parliamo del Medio Oriente, dell'Asia centrale, quindi la situazione è una situazione importante che riguarda in primis la popolazione dei volatili selvatici, e molte specie sono minacciate appunto dalla presenza di questo virus, ma lo sono anche, chiaramente il rischio è dell'introduzione nel volatile domestico. Focolai anche in Italia sono stati riscontrati? Sì. Fortunatamente però la nostra è ancora una situazione fortunata, perché i focolai sono stati soltanto nei volatili selvatici e soltanto in una zona del nostro paese, a nord-est, più precisamente nella zona della Laguna di Grado, e sono stati coinvolti due diverse tipologie di specie selvatiche, il fischione e la canapiglia, che sono anatre selvatiche. E sono stati coinvolti nell'infezione con due virus parenti tra loro, ma un po' diversi, perché sono un H5N8, si chiamano, questo è il loro nome, e l'altro H5N5, entrambi virus comunque ad alta patogenicità, e tra loro appunto, dicevo, correlati, perché hanno avuto entrambi un'origine in un antenato asiatico. Ci sentiamo di fare nostro un appello che ha fatto il WWF ai cacciatori, dicendo evitate questo periodo qui perché già sono aggrediti da questa influenza, non è il caso di abbatterli ulteriormente. Probabilmente è importante questa cosa. Allora, diciamo che nel nostro territorio fortunatamente le mortalità sono state contenute e non sono state segnalate, anche se io invece ne approfitto per fare un appello, e mi raccomando, nel caso di mortalità massive negli anseriformi selvatici, nelle anatre selvatiche, sono spesso anche gli stessi cacciatori che aiutano a definire, ad identificare queste situazioni di mortalità, perché alcune zone magari sono poco percorse, diciamo, dalla popolazione comune, mentre i cacciatori più appassionati spesso sono un importante, diciamo così, veicolo di informazioni. Quindi l'appello è dire: guardate che ne abbiamo trovati 7-8 morte. Questo, segnalate. Esatto, e va segnalato alle autorità competenti, chiaramente, quindi i servizi veterinari delle ASL in primis. Perché niente deve essere ovviamente manipolato, e quando sono presenti delle mortalità, ma questo va al di là dell'influenza aviaria, e anche si può pensare ad altre tipologie di infezioni, gli animali trovati morti, selvatici, non vanno mai manipolati. Occorre che il personale addetto sia quello richiamato a fare questo tipo di manipolazioni con adeguate protezioni individuali. Ecco. Isabella Monne, ci spieghi una cosa, anzi due. Innanzitutto come si trasmette questo virus e poi a proposito del vaccino che citavamo prima, insomma, esiste, potrebbero essere vaccinati gli uccelli selvatici? Se sì, come e perché non si fa? Il virus si trasmette sia per contatto diretto, cosa vuol dire due animali infetti si avvicinano ad un altro e la trasmissione proprio per contatto e avvicinamento avviene, oppure per trasmissione indiretta, e questa forse è la più subdola perché riguarda anche la possibilità che il virus si trasmette attraverso un ambiente contaminato e quindi attraverso qualsiasi veicolo che possa essere veicolatore del virus e contaminato con il virus, ad esempio feci infette che possano in qualche modo contaminarlo. E per quanto riguarda invece la seconda domanda, questa è una domanda sicuramente un po' più complessa. Diciamo che la vaccinazione non è di base impossibile nei volatili, i presidi vaccinali esistono, ma la vaccinazione è un presidio proibito per una serie di ragioni che vanno dalla mutevolezza del virus alla difficoltà poi di controllare la possibile copresenza del virus pure in presenza di un fenomeno di vaccinazione. Inoltre pensate ai numeri, lo vogliamo passare ai volatili selvatici, significherebbe davvero una numerosità che non è controllabile. Peraltro dobbiamo tener conto anche all'etologia di questi animali, dobbiamo tener conto della difficoltà anche di manipolarli, avvicinarli, allo stress che potremmo causare con un evento di questo tipo. Sì, è tecnicamente proprio impensabile. Esattamente, è proprio una situazione sicuramente molto complicata perché siamo di fronte ad una epidemia che non è la prima volta che osserviamo, perché già in passato un virus sempre correlato a questo benedetto H5 ha viaggiato dall'Asia ed è arrivato qui da noi. Non so se vi ricordate, tra il 2005 e il 2006 c'era stata veramente una grande paura. Questo virus è diverso da quello che avevamo visto allora, quindi sì, la grande paura non c'è perché è un virus interamente aviario, quindi interessa solo i volatili. Però chiaramente resta una problematica perché i volatili sono importanti dal punto di vista ecologico e lo sono anche, diciamo, da un punto di vista produttivo, alimentare, fonte di proteina di straordinaria importanza. Isabella Monne, a chi in ascolto ricordiamo di consultare eventualmente il sito dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per continui aggiornamenti sull'andamento di questa influenza aviaria. Grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Che storia che arriva adesso. Quasi 2 tonnellate di coralli vivi e oltre 25.000 esemplari di pesci tropicali per un valore commerciale di circa 250.000 euro. Questi, Federico, sono i numeri di un sequestro che è stato fatto all'aeroporto di Fiumicino dal Corpo Forestale e dalla Guardia di Finanza. 25.000 pesci? Arrivati nella pancia di un aereo. Sequestro fatto per alcune violazioni delle procedure previste, tra cui la Convenzione di Washington, che tutela proprio le specie di flora e fauna in via di estinzione, a cui appartengono anche alcuni degli esemplari sequestrati. E ne parliamo con Thomas Magliocco, che è il coordinatore di acquariologia dell'Acquario di Livorno. Buonasera Magliocco, benvenuto. Buonasera a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori. Senta, rapidamente intanto ci deve dire questo, cioè questi 25.000 pesci dove dovevano finire? Adesso sono parcheggiati, diciamo così, lì da voi, proprio per sicurezza, per gestire questa vicenda, ma dove dovevano andare? Allora, questi 25.000 pesci avevano diverse destinazioni all'interno del territorio nazionale e non. Ora, ovviamente, tutte le informazioni sono al vaglio degli inquirenti per capire bene quali fossero le destinazioni finali. Quello che posso dirvi, visto che si parlava di destinazione temporanea, quindi i custodi attualmente siamo noi, anche se siamo compartecipi di questa custodia, nel senso che questo grosso sequestro prevedeva sia la presenza di specie tropicali, tutte animali, quindi pesci e invertebrati, comunque coralli, ma anche la presenza di un grosso numero di pesci d'acqua dolce che sono invece stati trasportati, vengono al momento stoccati presso l'acquario d'acqua dolce della Certosa di Calci in provincia di Pisa. Ma quindi il sequestro, diciamo, queste due strutture hanno ricevuto... Ecco, ma senta, si discute spesso del grande problema di introdurre specie aliene anche nei nostri luoghi marini, ma questo tipo di specie che finiscono negli acquari, poi non c'è il pericolo che qualcheduno, come avveniva con le tartarughine, no? Che le vedevamo crescere, poi la gente le prende e le butta nel Po. Non c'è un pericolo con queste specie aliene che avvenga questo? Allora sì, anche se lei ha tirato fuori un esempio che è veramente molto molto calzante, che è quello della Trachenis scripta o Trachenis elegans, che è una specie aliena invasiva che dal sud della Florida ha ormai invaso tutto il continente europeo. Questa specie, diciamo, sta creando grossi problemi soprattutto a livello degli ambienti fluviali. Per quello che riguarda invece i pesci, in natura esistono delle barriere cosiddette biogeografiche, quindi anche qualora, chiedo scusa, alcuni pesci venissero inseriti in mare, tendenzialmente questi poi sopperiscono appunto a causa delle condizioni avverse. Ci sono stati tuttavia dei casi di inserimenti in natura che hanno provocato grossi danni, come famoso quello dell'alga caulerpa, che è un'alga tropicale avvenuto diciamo in Francia ormai una ventina d'anni fa, oppure anche quello che si sta verificando nel Golfo dei Caraibi con una specie velenosa di pesce scorpione, che non avendo altri predatori appunto sta spopolando nell'ambiente. Quindi colonizzano l'ambiente e quindi fanno dei danni anche a quelle che sono poi le specie autoctone. Sì, ripeto, in questo caso per quello che riguarda questo specifico arrivo, come per la stragrande maggioranza degli arrivi di questo tipo, non è questo il caso. Il problema forse è un problema che sta alla base, quindi è un problema di gestione degli ambienti in natura. E questo in fondo è la vostra missione, cioè siete impegnati nell'attività di tutela e sensibilizzazione dell'ambiente, specialmente quello marino, essendo un acquario. Esattamente, noi di questo ci occupiamo, la nostra missione è appunto quella di educare e sensibilizzare il grosso pubblico verso le tematiche ambientali, in particolar modo verso quelle di gestione degli ambienti acquatici, d'altronde poi il nostro pianeta è ricoperto per quasi il 75% da acqua, che sia acqua di mare oppure acqua dolce, sempre acqua è. E allora Thomas Magliocco, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e speriamo che molta gente venga a vedere questi animali splendidi e assolutamente da conservare. E che non arrivino 25.000 squali, perché in quel caso avreste dei problemi, immagino. E che non arrivino, no, in realtà che non arrivino più animali sequestrati, ecco, questa sarebbe la cosa, perché sarebbe indice del fatto che le persone rispettano le regole e di conseguenza che questi animali vengono gestiti correttamente, come è indispensabile che sia fatto. Buonasera. Oh, tempo tiranno, ci resta solo un nanosecondo per dire buona settimana a tutti e a tutte. Ciao.